Se resto in bilico, cresco minimo. Capisco che fare dal destro al livido. Non so te che te senti l'estro lirico. Rido perché bro tutto questo è ridicolo. Ti dico no, cerchi sempre la hit ma indovina. Flop, tu vuoi quella carina cagnolina? Oh, peccato che debba prima far la fila tipo show. E sono un po' preso male nel backpack. Polvere se canto sembra normale, ma che c'è? Che te ne frega, sono qui per spaccarti il contrario di Town Smack. Questo è un preliminare, preliminare te fra. E se mi cerchi chi? Paranoia Kid. Paranoia Kid. Paranoia Kid. Paranoia Kid. Ah. Paranoia Kid, mi imparanoia chi non impara a capire. Meglio cambiare direzione. Spero ti serva di lezione. Ragazzi vestiti puliti, in giri poco puliti. Tutti amici finché non rimangono con due spicci. Me ne frego cosa pensi, cosa fai, cosa dici. Questo è meglio, non è colpa mia se non lo capisci. Da Supreme e Fibra. La gente vuole solo commentare, frate mezza scena all'ascolto. Aspetta, cosa? Qualcuno sta parlando male. Oppure sono io paranoico. E ho fumato così tanto, perso nella paranoia, che mi sono risvegliato in un hotel in California. La strofa la chiudo con questo flow del 9-6. Parlo poco pure in tour, dovevo fare il DJ.